domenica d'estate ho freddo senza te. Il sole picchia come un pugile, ma nel mio cuore nevica. Potrei buttarmi dentro un cinema, di vedere un porno non mi va. Tengono chiuse anche le chiese qua, in questo cesso di città. Però dal cielo comincia a scendere la sera, sulle tovaglie di qualche ristorante si possono vedere già le stelle, mentre si accendono qua e là. Non voglio andare a casa, è domenica, voglio pensare solo a te. A te che dormi su una nuvola, a te con me e a me con te. Domenica d'estate ho freddo senza te. Le stelle ci sono tutte, ma nel mio cuore nevica. Oh, oh. Domenica d'estate non lontani come statue, no. Tra poco passa l'autobus, fa un'altra corsa e l'ultima. Il brano del 1969 è stato reso famoso prima da Ray Stevens e successivamente da Johnny Cash. Ma ora andiamo a sentire la versione dell'autore, Kris Kristofferson. Il brano è Sunday Morning Coming Down. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my hand. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street and caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. on the Sunday morning sidewalks, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl who he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to a song that they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like the disappearing dreams of yesterday. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down. Quarta portata, vi servo un brano tratto dal quinto album di Silvano Albanese in arte Coez, e il brano si chiama, guarda un po', Domenica. Senza mani, una risata isterica e sconvolgere i tuoi piani, a volare senza elica, senza elica con te. Vorrei fosse domenica, niente stadio né partite, una coda patetica su questa statale andare, volare senza elica, senza elica io e te. Siamo bambini, come se fossimo destini che si corrono accanto, con le mani nel vento, come fosse domenica con te, con te. Vorrei fosse domenica, tu coi piedi sul cruscotto, io il braccio che penzola, l'orologio sotto al sole che scotta e ripenso alla mia vita senza te. Vorrei fosse domenica e tua madre fosse meno, un po' meno nevrotica, e tuo padre oggi bevesse soltanto acqua tonica, io e te a ridere. Come se fossimo bambini, come se fossimo destini che si corrono a casa, con le mani nel vento, come fosse domenica e stringi la giornata fra le dita, che fra poco è già finita. Così è la vita, così è la vita. Come se fossimo bambini, come se fossimo destini che si corrono a caso, con le mani nel vento. Siamo in California, singolo dell'album Tragic Kingdom del 1997, scritto a due mani da Tony Kanal e Gwen Stefani. Loro sono i No Doubt, questo è Sunday Morning. Sunday morning. arrangiamenti soffici e vellutati accompagnano un testo essenziale, minimalista, ma nel contempo efficace. Vabbè, tratto dal loro settimo album, questo è Di Domenica, loro sono i Subsonica. Sempre a fare i rocchettari alternativi, i Sonic Youth ci regalano nel 1998 questa Sunday. Thank you. Il 30 gennaio 1972 a Derry l'esercito della regina inizia a sparare sui partecipanti ad una manifestazione. 14 persone morirono e 14 rimasero ferite. Quella giornata venne ricordata come la Sunday Bloody Sunday ed 11 anni dopo gli U2 la ricordarono con un pezzo. This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday. I can't believe the news today. church is everything else. And mothers, children, brothers, sisters, down the Bella a tutte e tutti e buona domenica. Dagli Radio Forte, dagli!